La bella estate. Racconti dell'Italia in vacanza. Di Fabrizio Intonti e Tommaso Labranca. Lick it, lick it, rack it, forward jump, back jump, one, two, three. E oggi li voglio davvero i vostri racconti dall'Italia in vacanza, ma non racconti normali, sono stato in spiaggia, ma neanche racconti eccessivi, tipo ho scalato il Cervino. Oggi abbiamo una puntata che si chiama Wild Boys. Parleremo di eventi eccezionali, imprese eroiche. Ma le imprese eroiche, quelle vere, la scalata del Cervino piuttosto che l'attraversamento del Mar Cinese a nuoto oppure su un pedalò, li faremo fare agli ospiti telefonici. Da voi che mi dovrete chiamare all'800 24 00 24, voglio altro. Avete mai passato l'estate a casa imbiancando l'intero appartamento per scoprire poi che è venuta fuori una schifezza? Avete mai trascorso 15 giorni con la suocera che aveva detto vengo con voi ma non vi do fastidio? Siete mai partiti per le vacanze soltanto con uno zaino? Questa è per le signore, invece delle solite 25 valigie? O avete studiato tutta l'estate perché avevate tre materie a settembre? Queste sono le cose che voglio da voi all'800 24 00 24, mi raccomando, al mio segnale scatenate l'inferno. Bip! L'ascolterei tutta più volte di seguito, ma non posso perché me l'ascolterò a casa. Qui abbiamo già il primo ospite ed è un ospite molto molto particolare. Adesso fra un po' ve lo presento. Pensate, avremo una persona che ci parlerà delle sue imprese eroiche nel campo dello spettacolo, cose che voi non dovete raccontarmi, a meno che non sia ho fatto tutto, non so, il musical tutti insieme appassionatamente nel villaggio vacanza, interpretando tutte le parti, il colonnello piuttosto, non mi ricordo più chi erano i protagonisti, piuttosto che i bambini e così via. Mi raccomando, quindi, mentre aspettiamo di sentire queste storiche imprese da parte di persone che ce l'hanno fatta, da voi voglio invece le cose un po' più alla portata di tutti. Sapete, dovete insegnarmi come si vive l'estate, perché io l'unica cosa che faccio in estate è aspettare l'autunno. È triste, ma è così. Luca Calvani! Salve! Ciao, eccoti qua, ci sei! Come mai? Come tutto quello che fai d'estate e aspetti l'autunno? Non mi sembra un... Guarda, sapessi, io tutto ciò che faccio di domenica aspettare lunedì, quindi in estate non faccio che amplificare questa... Sei il trionfo leopardiano del sabato del villaggio. Sono uno sfigato, detto in maniera molto meno culturale, dai. Ma no. Luca Calvani lo conoscete, è attore, quindi figuriamoci, abbiamo un ospite... Certo. Come no? Scusa, ma è quello che tu fai? Certo, sì. Ne hai fatte di tutti i colori, in televisione ti abbiamo visto in tutte le parti possibili e immaginabili. Sì, poi faccio anche il conduttore, quindi ho fatto anche un po' di Radio 2. Quindi... Hai fatto di tutto, però oggi dobbiamo parlare di imprese eroiche. Tu hai fatto qualche impresa eroica d'estate? Ma io penso che il nesso per quanto riguarda la mia partecipazione al programma sia proprio il fatto che ho fatto in stagione estiva, perché ero ai tropici, però l'isola dei famosi, insomma, non è che proprio sia una passeggiata di salute. Ecco. Ma no, non è solo quello, perché in realtà, a parte il fatto che tu stai lavorando con Woody Allen adesso, diciamolo, perché non tutti possono dirlo. No, nessuno lo può dire, perché comunque non sto lavorando adesso, ma lavorerò quest'estate. Lo so, nessuno può dirlo, ma su internet c'è già scritto, quindi ormai è di dominio pubblico la cosa. Quindi. Eccoci, grazie, speriamo che non mi mandino a casa. Ma no, secondo te Woody Allen ci sta ascoltando, ma non penso proprio, dai. No, però sai, conosci tanta gente. Dai. Le vere cose, allora per me personalmente, le vere cose che tu hai fatto di eroico sono state altre, e te le dico. Allora, in primo luogo tu a un certo punto ti sei diplomato e sei andato in America, ma non a fare l'artista come fanno tanti, vado lì, faccio il regista, no, lavoravi in un'azienda tessile. Sì. E questo è eroico, è una scelta eroica, io ti faccio i complimenti. Grazie, beh, era il mio mestiere, insomma, venivo da una tradizione di tessutai, ero perito tessile, quindi insomma... È stato il primo gradino, l'appoggio, dove, cioè, andando a New York proprio per non fare il disgraziato artista allo sbando, come poi ho fatto, perché non mi sono fatto mancare neanche quello. Insomma. Però diciamo, ecco, ho cominciato così, per 4 anni ho fatto quello, sì. Ecco, un altro eroismo, io mi sono visto, guarda caso, neanche a farlo apposta, qualche giorno fa mi sono rivisto un episodio di Sex and the City, in cui ci sei anche tu. Ah. Mettersi quella cintura di strass effettivamente è abbastanza eroico. Ma oltre la cintura di strass, che vabbè, non parliamone. Io l'ho seguito in versione originale. Tu non sei doppiato, parli in italiano e dai della chiatta a Sarah Jessica Parker, che lei non ti ha capito, quindi non no, ti... una balena di... Sei una balena, la tagliamo. È bellissimo quel pezzo, è bellissimo. Sei una balena, la tagliamo, con lei che non sa cosa stai dicendo. No, infatti lei capiva quello che dicevo, perché rispondendomi all'I'm coming in inglese lei capiva, capito? Ah, ma non ti ha picchiato comunque? No, lei anzi super carina, e tante idee delle gag che abbiamo fatto sull'episodio erano proprio idee sue. Sarah Jessica Parker è un'artista, una commediante consumata, veramente è incredibile quanto il suo input portava, aggiungeva cose. Da quando fa la commedia sulla pagina ci sono due o tre battute, ma poi in realtà è la commedia fisica che vedi, quel discorso apre sempre la testa, c'era un sacco di cose molto fisiche all'interno della scena che erano proprio idee sue, ecco. Quindi è bello lavorare con persone così generose che vogliono fare, vogliono aggiungere, certo, vogliono abbellire l'albero, ecco. Però siccome c'è sempre la legge del contrappasso, per aver lavorato con Jessica Parker poi hai dovuto lavorare con Galeazzi nel 2009, questo è stato anche eroico, eh? Ma no, ma Giampierone è un mito. No, meraviglioso lui. Io mi sono trovato molto bene con lui, anzi, è stata un'esperienza bellissima quella di Effetto Sabato. Penso che di aver stupito molti, ma soprattutto di aver stupito me stesso, perché l'ho saputo 10 giorni prima che avrei condotto il programma, perché ha saltato un conduttore e in Rai hanno scelto uno degli attori della loro fiction e mi hanno fatto un test. Insomma, io l'ho saputo il 3 di dicembre e il 3 sono andato in onda, quindi ti puoi immaginare. Cioè, ho fatto le ripetizioni da chiunque, da chiunque, a Mara Veniere, cercavo gente per strada e mi dicevo, come si fa a condurre un programma? E ti davano dei consigli. E poi, vabbè, l'hai citato anche tu prima, L'Isola dei Famosi nel 2006, dove il vero atto di eroismo non è stato sopportare i pappatacci, i serpenti e così via, ma tu eri insieme a De Narro, Leone di Lernia e Giuseppe Cionfoli. Io ti darei una medaglia solo per questo, guarda. Allora, senti, Cionfoli in realtà non l'ho conosciuto. Ah no, non l'hai mai visto proprio? No, perché lui non ce l'ha mai fatta arrivare sull'isola, si è fermato prima. De Narro, io devo dire la verità, dal punto di vista poi quello che avete visto voi in televisione, noi le cose non le vedevamo, i confessionari quando piangeva, però insomma, a parte degli episodi ovviamente di stress che possono, penso, però è stato, per me è stato veramente un amico, cioè nel senso, lui è l'unico che quando è stato eliminato è tornato in Italia, ha chiamato la mia famiglia, gli avevo scritto un numero sul cocco, me l'avevo inciso su un cocchettino. E si è portato il cocco fino in Italia poi? Davvero, coinciso il numero, perché non abbiamo carta, non abbiamo niente, certo. Ha chiamato la mia famiglia per dire stavo bene, cioè, nel senso, è stato l'unico. E poi chi altro avevi menzionato? Leone di Lernia è... Non lo so, mi faceva ridere perché era come il vecchio e il bambino. C'è una scena dell'isola dove proprio lui mi ha dato molta forza. In un momento in cui pensavo veramente di essere il più sfigato di tutti, mi ha dato una bella strigliata, ma di quelle proprio come si vede nei film, sai, quando c'è il ragazzo e si allontana a guardare il mare, arriva il vecchio e gli fa: ma sei un testa di cazzo, ma sai quante cose importanti vorrei fare, ma che te ne frega di queste cazzo. Cioè, mi ha dato veramente. Qui però, Leone ha 5 figli, non uno, e sono tutti sani, tutti lavoratori, tutti, insomma, è uno che fa tanto lo scemo, ma poi insomma a casa comanda lui, sì, è uno pragmatico. No, ma comanda anche la moglie, c'ha una moglie tostissima che lo tiene in riga. No, credo veramente che questi personaggi che hai menzionato tutti abbiano un personaggio televisivo che ovviamente... Beh, naturale, mi riferivo a quello. Tutti noi, sì, credo, certo. Tutti noi. Mi riferivo al personaggio televisivo. Senti, ma quando poi sei tornato dall'isola, sei andato in vacanza dalla nonna per compensare? Non penso avrai fatto una vacanza all'insegna dell'avventura. Ma continuo, cioè, in realtà, per esempio, si ripercorre un po'. Io adesso che sono padre, una bambina di 2 anni, ho preso una casa in Versilia per tutta l'estate, dove come faceva mio padre, no? Ogni momento che ho libero torno su a casa, sto 2 giorni lì con loro al mare, poi riparto. Adesso sono a Sabaudia, domani torno a Trieste perché sto girando una cosa a Trieste. Ma quindi stai lavorando, più che in vacanza sei impegnato nel lavoro? Sì, sono impegnato su 2 set, quindi insomma sono molto contento. Speriamo che ti tenga. Non mi posso assolutamente lamentare, però diciamo, ecco, da martedì pomeriggio fino a sabato nessuno mi tocca, sto a casa con la mia figlia al mare. Ah, va bene, senti, ti ringraziamo comunque per averci dedicato questo tempo rubato magari alla figlia piuttosto che al set. Grazie Luca. Ma comunque insomma, via, quest'estate vai fuori, fatti un bagno, non lo so. Non posso, ma non posso. Beviti una cedrata, una spuma, vai in Toscana e chiedi una spuma bionda, che nessuno sa cos'è fuori dalla Toscana. Come no, la spuma bionda ce l'hanno anche l'oratorio del mio paese, dai. Esatto, andrò lì. Ti prendi una Graziella, carichi una bella ragazza dietro, capito, fin piedi, con le mani sulle spalle, sulla e vai a farti il giro, viva l'estate, dai. Vabbè, seguirò il tuo consiglio, poi ti farò sapere com'è andata. Grazie Luca. Ciao, buona ciao, estate a tutti. Ciao. Che bello, che bello sentire queste storie da Luca Calvani, ma io voglio sentire le vostre. 800 24 00 24. Quali sono state le vostre imprese estive più assurde di quest'anno? Ma no, di quest'anno, dell'anno scorso, di 10 anni fa, non lo so, ditemele. 8.000 sigarette, 6.000 caffè per la notte più lunga della televisione italiana. Due cifre simbolo del clima di una notte che ha impegnato oltre 250 persone fra giornalisti, tecnici e operai e mezzo migliaio di invitati. Lo studio 3 di Via Teulada è stato il passaggio obbligato delle ansie, delle attese snervanti e di tutte le emozioni procurate da queste 25 ore lunari. Sono le 19.28 di domenica 20 luglio 1969. Gli ultimi ritocchi, poi l'avventura. Allora silenzio, pronti, mancano 30 secondi. Tutti a posto per favore, grazie. Le prime ore della serata scorrono in un clima tranquillo. La tensione comincerà più tardi. 22.15, il primo momento drammatico. Il LEM sta per toccare il suolo lunare. Siamo nella cabina di regia. È qui che giungono i segnali da Houston, qualche secondo prima che arrivino a milioni di italiani. Mario, lascia adesso stare in primo piano. Guarda di costagno, di costagno. Eccolo. 5, 10 e mezzo. Questa non so quanti di voi la conoscevano. La cronaca del primo, si dice allunaggio dell'uomo sulla Luna, appunto nel luglio del 69, ma non la solita telecronaca di Tito Stagno, abituati a sentirla. Questa era un dietro le quinte. Cosa succedeva dietro le quinte della RAI? Naturalmente questo era un grande evento eroico estivo, l'arrivo dell'uomo sulla Luna. Invece Giovanna da Parma, cosa avrà fatto? Giovanna? Sì, buongiorno a tutti. Ciao. No, aspetta. Sì. Prima ci vuole la giusta atmosfera. Aspetta un attimo. Ecco qui. Adesso con questa musica eroica ci racconti la tua esperienza. Ecco, noi siamo alle prese con la ristrutturazione di una casa. Ah. Ho detto questa parte, ma sì? Non è finita. Perché? Abbiamo anche una piccola peste di un anno da tenere a bada ed è che il quale è morbosamente attratto da trapani, martelli, cacciaviti, insomma tutto ciò che è pericoloso. E quindi insomma quest'anno ci teniamo proprio degli eroi, ecco. No, ma veramente ve lo dico anch'io, eroi, ma non potete mandare il bambino dalla nonna, no? Io sono un po' gelosa degli spazi che piccolo passa un sacco di tempo con i nonni, questo è vero. Però insomma per quello che è possibile sta con noi, ecco. Sì, ma non per farmi gli affari tuoi, ma quanto è grande la casa? È una casetta bifamiliare di, oddio non saprei, però saranno 100 metri quadri, ecco. Insomma, ormai siamo addirittura all'arrivo. Ah, state per finire quindi? Sì, grazie a Dio siamo per finire. Beh, sì, siamo fatti 2 settimane di vacanza prima di iniziare, che col senno di poi avremmo dovuto farle dopo, però vabbè. E adesso insomma quasi quasi siamo, ecco, domenica è previsto l'ingresso in casa. Allora vi dichiaro ufficialmente eroi della bella estate. grazie e mille. Occhio al bambino, ciao. Ciao. Ma sentiamo una strana avventura eroica. I subacquei che abbiamo incontrato fino adesso vi sembrano matti? Vi assicuro che oggettivamente ce n'è uno ancora più matto. Si chiama Dante Cetrioli, eccolo là. Dante oggi vuole stabilire un nuovo record mondiale di apnea. La nuotata orizzontale in acque fredde più lunga del mondo. 85 metri in apnea sotto i ghiacci. Il freddo ti fa perdere concentrazione, ti irrigidisce il corpo, ti accelera i battiti cardiaci, ti irrigidisce tutti quanti i muscoli, quindi alza a livelli stratosferici il consumo di ossigeno dell'aria che uno normalmente respira. Non so chi sia questo signor Dante Cetrioli, abbiamo trovato questa clip che ci ha affascinato, anche perché abbiamo sempre sentito parlare di Cetrioli, sott'aceto, ma sotto ghiaccio un po' meno. Lui ha fatto questa impresa eroica, nuotare per 85 metri sotto il ghiaccio. Ma e voi qual è la vostra impresa eroica? 800 24 00 24, mi raccomando, ci tengo particolarmente. Chiamate e fatemi sapere quali sono. Tipo questa qui, appunto, ristrutturare la casa, sopportare la suocera in vacanza, oppure fare come me, stare a casa e dire, beh, prima o poi arriverà l'autunno, non lo so. Nel frattempo, bisogna, eccolo qui, è arrivato un altro dei nostri eroi, Massimo. Pronto, pronto. Massimo? Massimo, eccoti qua, da Roma, vero? Da Roma, assolutamente. Sei pronto? Prontissimo. Allora aspetta un attimo, andiamo. Ecco qui la tua impresa eroica. La mia impresa eroica. Qualche anno fa, periplo di Capo Palinuro con una canoa gonfiabile, ma non di quelle professionali, quelle giocattole, quindi proprio quelle poco più di un canotto, con mia moglie, furiosa. Perché furiosa? Scusa, perché furiosa? Perché furiosa? Non l'hai portata con te? Perché ci siamo fatti un culo disumano, praticamente. Vabbè, oggi siamo un po' paroliberisti. Perché te la pagai, pagai con quelle canoe lì e non ti muovi. Alla fine però l'abbiamo fatto e... Però niente, ritorno è stato in autostop. Io sono tornato a prenderla con la moto e abbiamo caricato lei alla canoa gonfiabile e siamo tornati indietro litigando. E poi lei ha distrutto la canoa gonfiabile a morsi, cosa ha fatto? Praticamente sì, no, più che altro è stata, sì, è stata veramente drammatica la serata, perché non è stata etica, ecco, tutt'altro. Quindi tu sei stato un eroe non per aver fatto questo giro intorno a sto periplo di Capo Palinuro. Ma un eroe, un martire, direi. Sì, un martire di tua moglie, però. Sì, ecco, va bene. Ti dichiaro martire della bella estate. Grazie, ciao. Ciao, c'è ancora Mario da Imola che ne ha fatte anche lui, è vero Mario? No, sono a Imperia, comunque sono Imperia. Una da Roma. Ciao Tommaso, ciao, buongiorno. Buongiorno. Mi scrivono queste guarda, province. No, aspetta, aspetta. Ci vuole la giusta atmosfera. Vai, ecco, arrivano le Valchirie. Qual è la tua impresa? Guarda, io avevo forse 17 anni. Sì? Ero solo a casa, non avevo una lira. Mi sono fatto tutta una giornata in autostop da Roma per arrivare a Sperlonga. Che? Ho incontrato un ragazzo. Quanto è lontano Sperlonga? E aveva un boxer Mario, che era di una simpatia unica. Il boxer. Delle ragazze tedesche, sì? Con un maggiolino che guidavano senza scarpe. Dei ragazzi romani simpaticissimi che mi hanno offerto mozzarella di bufalo e, di bufala e grissini, sì. Sono arrivato alle 8:30 di sera, che ero distrutto a Sperlonga con i miei, che quando mi hanno visto hanno detto è arrivato, ma non mi aspettavano, perché all'epoca io ho 53 anni, sì? E i cellulari erano fantascienza, non c'erano naturalmente, quindi non proprio erano fantascienza, proprio non esistevano proprio. Quindi hai incontrato qualche cosa di 40 tanti anni fa, sì, sì. Mario, quindi hai incontrato veramente delle valchirie, tu, queste qui che guidavano scarse. Ho incontrato delle valchirie, esatto. Mamma, ti nomino. Ma ho fatto un pezzo di strada, sì? Sulla litoranea di Nettuno, tra Anzio e Nettuno, per andare giù al Circeo, sì? Con la musica dei DJs. Allora era appena uscito La febbre del sabato sera. Ah, ho capito, preistoria, allora non diciamo altro perché è preistoria. Ma io una salopette a strisce blu e bianca, una maglietta bianca. Avevi una salopette? Con gli occhiali, sembrava un matto. Non ti avrei mai preso a bordo dell'auto. Grazie Mario, ti nomino. Ciao, eroe, Tommaso, anche tu. Ciao. Pomeriggio. Ciao, ciao, ciao anche a te, ciao. Uno peggio dell'altro, Francesca Carla, vero? Ci sei? Buongiorno, sì, sono Francesca Carla, buongiorno Tommaso. Ciao, pensavo foste in due, perché non solo Francesca Carla, ma anche da Monza Brianza, tutto raddoppiato, sei, sì, pronta? Sì, poi oltretutto non sono neanche di qua, io sono della Valsusa, proprio nata lì. Ah, ma che bello, sei pronta? Vivo qua però, da oltre 30 anni. Guarda, una medaglia anche per questo, sei pronta a raccontarci la tua impresa? Sì. Questa era tutta per Caterina, perché Céline Dion racconta di quando una notte ha preso l'auto e ha fatto tutta una tirata, cosa da non fare mai, mi raccomando, bisogna fare soste, autogrill, fermarsi, mangiare, dormire, non lo so cosa bisogna fare. So che invece adesso bisogna parlare con un vero eroe, cioè voi mi avete raccontato le piccole esperienze, c'è chi fa le grandi esperienze. Abbiamo con noi un ospite che ha fatto, si chiama Daniele Sparpaglione. Pronto Daniele, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Allora Daniele, tu ne hai fatte più di una in realtà, non ne hai fatta solo una. Noi ti abbiamo chiamato un po' per questo attraversamento a nuoto di cui ci parlerai, però poi ci direi anche qualcos'altro. Sì, praticamente ho fatto 5 maraton de sable, che sono maratone di 300 km nel deserto marocchino in autosufficienza, cioè vuol dire correre nel deserto appunto senza praticamente avere nessuno appoggio, quindi zavorrati con lo zaino, tutto quello che è necessario per vivere. Ma correndo? Correndo e vivendo appunto una settimana così nel deserto. Non ti sei perso? No. Ah, come, no, come facevi ad orientarti? E beh, praticamente l'organizzazione ha messo a punto una serie di punti di riferimento che insomma è impossibile perdersi. Ah, vabbè. Ma questa impresa invece a Gibilterra cosa hai fatto? A Gibilterra praticamente ho fatto in solitaria a nuoto lo stretto. Sono partito da Tarifa, praticamente la sponda spagnola, e sono arrivato praticamente nella sponda marocchina a Punta Leona dopo 5 ore 17. Sempre nuotando, 5 ore 17 nuotando. Sì. Sì, assolutamente nuotando. Ma tu, anche tu fai come quelli che vedo nelle vecchie foto che si spalmano di grasso di foca? Sì, ci vuole perché praticamente per la temperatura dell'acqua e anche poi per comunque il movimento della bracciata, che poi può creare problemi di irritazione al collo, sotto le ascelle, eccetera. Quindi è necessario. Tu sei un Iron Man, ho letto. Sì, ho fatto 5 Iron Man, l'ultimo l'ho fatto. Spieghiamo cos'è l'Iron Man. L'Ironman praticamente è una gara che si fa normalmente in mare, sono 3,8 km di nuoto in mare, 180 km in bicicletta e poi la maratona, 42 km di corsa a piedi. Ecco, siccome gli ascoltatori quando sentono queste cose poi sono curiosi, voglio specificare che Daniele è un geometra. Sì. Ecco, quindi ha un suo lavoro, in cantiere si comporta da Ironman, scala le impalcature, non so cosa farai. Sì, in effetti tutto io così. Sfrutto anche il cantiere per fare allenamento, io vabbè, principalmente faccio il topografo, quindi comunque sono sempre fuori in campagna, quindi se devo fare degli spostamenti li faccio di corsa, a piedi, senza utilizzare i mezzi. E quest'estate invece cosa farai? Quest'estate, niente, con degli amici, adesso abbiamo così formato questa squadra di triathlon che si chiama Stafora Triathlon e abbiamo dei programmi di gare che appunto andranno prossimamente. Con quindi ti prepari? Sì, sempre. Mi raccomando, allora, preparati per bene. Perché tu fai le grandi imprese. Grazie Daniele. Grazie mille. Grazie. Ecco, mentre Daniele Sparpaglioni ci ha raccontato le sue grandi imprese, che impresa ci racconterà Franco da Milano? Franco? Buongiorno. Buongiorno a te, sei pronto? Buongiorno a tutti, Tommaso. Sì, ma dopo tutte queste cose, no, la aspetta. Mia è proprio minima. È quello che voglio. Vai con la musica, vai. E vai anche tu con l'impresa. Allora, qualche anno fa presso un villaggio dove c'erano circa 3.000 napoletani, specifico napoletani perché è un pubblico particolarissimo. Nel bene, naturalmente nel bene. Nel bene, chiaramente. Molto caloroso. Mi hanno fatto esibire insieme a altre 6 persone nel Morte del Cigno di Tchaikovsky. Cioè tu hai ballato la Morte del Cigno. Aspetta, io ero il più magro e pesavo 90 kg. Il cigno che moriva fra le nostre braccia era un commercialista di Napoli di 160 kg. Che non lavora più adesso, fa il ballerino, è fuggito. Ascolta, sì. Tutti col tutù rosa. Ecco, signori, avete sentito dalla voce di Franco il motivo per cui io non vado mai nei villaggi vacanza. È perché non voglio ballare la Morte del Cigno né vedere. Senti, ti do non la medaglia ma il medaglione di eroe della bella estate. Grazie, è stato bellissimo. Grazie a te, Tommaso. Non farlo più però. Ciao. Grazie. Gianni. Ciao. È bello allegro, Gianni, bello allegro. Anche tu hai qualcosa del genere? Hai ballato anche tu? Allora, no, sta ridendo già da adesso. Dopo tutte queste imprese sensazionali, devo dire che anch'io la mia bella traversata nel deserto australiano me la sono fatta. Ma a parte questo... Che infatti quella che non ci interessa, sì. Più bassi. Andando su cose più amene e più facili, nel 2000 in un villaggio vacanze, sempre di quelli dove ti prendono, ti coinvolgono, io sono arrivato lì, ero in una situazione un po'... Un po' è cosa? Finiamo le frasi. Che situazione era? Allora, te la racconto, via. Mi stavo separando con mia moglie, le cose non erano... L'atmosfera non era il massimo della vita. Eravamo in vacanza assieme, però eravamo in rotta di collisione. Morale della favola, mi sono lanciato, ho deciso di distrarmi e ho vinto la gara delle barzellette che si raccontavano nel dopo pranzo. Ah, che erano ubriachi ormai comunque, sì. E poi cos'altro hai fatto? E poi ho interpretato Tony Manero nel remake di Saturday Night Fever. Ma avevi anche l'abito bianco? No, però avevo una canottiera tiratissima. Vabbè, Certo, guarda, ti do la medaglia, però voglio anche dire una cosa. Capisco tua moglie, o anzi la tua ex moglie. Ciao, ciao Gianni. Ciao, ciao. È stato... mi sento a pezzi, è stata una puntata stancante perché mi sembra di aver fatto io in prima persona tutte le vostre avventure. Non so a chi dare l'Oscar della bell'estate. Diciamo che Tony Manero con la barzelletta potrebbe essere anche il... quello che potrebbe vincere. Abbiamo quasi finito anche oggi, quindi ho tutto il tempo per salutare con calma oggi tutti quelli che mi aiutano, da Viola Bottoni, che è la nostra redattrice, poi c'è anche Mauro De Angelis, ma volevo sapere anche da loro se avevano fatto qualche bella avventura, qualche bella esperienza. Avete combinato qualcosa in vita vostra? No, niente, non hanno fatto niente, assolutamente. Inutile vi dica quello che ho fatto io, perché ancora meno. Ricordatevi la nostra pagina Facebook, La Bella Estate, andate lì, diventate fan, perché potete vedere tantissime altre cose, dei video in particolare, poi vi racconto quello che faccio veramente d'estate, ossia niente, come ho detto aspetto l'autunno. Ci sentiamo lunedì con una puntata che si chiama Le tagliatelle di nonna Pina, ma non si parla di cibo, si parla delle vacanze che abbiamo tutti passato, anzi che avete passato voi, io me ne tolgo, dalle nonne, dalle zie o chissà da qualche parente. Ci sentiamo lunedì, buon weekend!